puoi Io non andare. sento il... No, scusate, vi do... Ora lo sento. Ottimo. Perfetto, puoi iniziare la tua narrazione. Nelle puntate precedenti, i nostri baldi giovani eroi, dopo aver scacciato una banda di malintenzionati e aver ucciso un cristiano, e dico ucciso perché Adone ha fatto go go go go e gli ha succiato via l'anima dal cazzo, quindi non è più con noi quella persona. Quando proveranno a risuscitarla, rimarrà morta. Loro diranno: ah, ha fatto circa il medikit, invece io gli ho succhiato il cazzo. Detto questo, abbiamo parlato con il povero cristiano che abbiamo salvato, di cui non mi ricordo il nome, perdonatemi. Assist dai miei compagni. Cleto? O dici il cavallo? No, di quel tizio colorato. Ok, si chiamava Cleto, cioè i suoi vestiti erano colorati. Cleto Nabeos. Perfetto. Io Aiutiamo questo pronuncio baldo Nadreos, giovane però sì. di nome Atta, ce l'ho Cleto, riscritto. che insomma, decidiamo di accompagnarlo, vuole insomma offrirci qualcosa, lo accompagniamo a casa sua. A questo punto ci racconta e ci spiega che lui, la sua famiglia possiede, io non so, c'è un metodo, nome specifico, ma la spiego così, possiede dei cavalli che vengono utilizzati come servizio di Uber attraverso l'isola, e quindi hanno il soldo. Uber. Esatto, hanno gli Uber. E allora dice, noi diciamo: guardi signore, gentilissimo, noi dobbiamo andare da quella parte, lui, vi do io i cavalli. Perfetto. Allora lo accompagniamo, facciamo una passeggiata. Man mano che ci avviciniamo alla sua tenuta, tutti tranne Nibel, perché povero Nibel ha un certo livello di istruzione, ci rendiamo conto che c'è una presenza bizzarra, perlomeno, nella villa. Che C'è anche appunto Channel comunque Edited, andiamo. è stato strano. Anch'io è stato Aspetta, terribile. aspetta. Stavo modificando una roba, infatti lo sposto e almeno, ok, possiamo continuare questa cosa senza problemi. Ok. Anche appunto andiamo. Adone, rimangono fuori Nibel. No, rimangono ad aspettare Lieto e Miff, Mif. mentre Adone e Nibel vanno verso il cavallo e vanno a vedere la presenza malvagia. Questa presenza malvagia si rivela essere un cavallo di 4 metri fatto interamente di metallo, che odia Adone per ovvi motivi, perché dice: quelli come lui non li voglio, ovvero gli ebrei. E giustamente, perché come sappiamo tutti, Adone è figlio di una mamma ebraica, quindi vabbè, sorvoliamo. Adone dice: vabbè, sapete cosa? Mi levo dai coglioni. E se ne va. Va fuori appunto a parlare con Lieto e manda Miff a dargli il cambio, sostanzialmente. Al che Miff va. E intanto Cleto dice: ma boh, non ha mai fatto così. E intanto gli racconta la sua storia. Al che Miff va dal cavallo, tutto sembra normale. Lieto e Adone parlano. Lieto riesce a far provare tutta la sfera delle emozioni ad Adone. Al che se ne va a vedere il cavallo. E il cavallo ha di nuovo la stessa reazione. Quindi semplicemente ce l'ha con le persone gay, questo cavallo. Non lo so, che appunto. Coming out di dietro. Così, no, comunque anche Lieto si leva dai Dalla coglioni. dall'evento della Gender Machine è abbastanza canon, mi pare. Cioè, non è che... Che Lieto è una donna omosessuale. Esatto. Anche appunto Adone e Lieto vengono ostracizzati da una parte. Intanto la cosa più importante della sessione, il cavallo che si chiama Glauco. Glauco, Glauco, ok. il cavallo racconta la sua storia di come è arrivato, di questo angelo che solo io conosco, di nome Lovers. Eccoci qua. Ma infatti a me è venuto in mente adesso, ma Glauco c'era nell'altra campagna. Va bene. Vabbè, sorvoliamo. Comunque ci danno dei cavalli. Ci danno dei cavalli e iniziamo il nostro viaggio. Abbiamo 2 giorni di viaggio che non ruoliamo, Da ovviamente. notare, il più divertente è quello di Nibel. Scusatemi. Vero? Sì, che è un cavallo grande, no? Cos'è? Era sì, era quello gigante Che ed è era quello che aveva simpatico, più fa le senso di battute. umorismo. Scusatemi, andiamo avanti. Dopo questi due giorni di viaggio arriviamo in questo spiazzo che è molto vicino alla centrale, perché dobbiamo passare di lì, dove troviamo appunto la centrale, la sabbia, la spiaggia, dove vediamo un povero ragazzo biondo di nome Naya Petri che stava per venire ucciso. Davanti a lui un magister che tre di noi non riconoscono, una persona in particolare sì, e il grandissimo carissimo Devin con... Coco. Devin. Con appunto... Perché mi sento doppio? Oh, Dio. Eika. Eika, che problema. Su Fateless, per la gioia di Stella, possiamo vedere i due interessati. Il magister sulla destra e sulla sinistra Devin, che devo scopare. Dopo aver ucciso Naya, accade un evento, ovvero dall'acqua si erge questa enorme mastodonte. No, non è morto Naya. Sì, prima si erge. Gli hanno falciato, esatto, dopo gli hanno falciato. Sì. Minchia, ha pregato per chiamarlo, tipo. A parte che eravate lontani, quindi questi personaggi non lo sanno. Out of character, vi ho raccontato che aveva accettato il suo destino, aveva chiesto al tizio di portare un messaggio ai suoi amici e prima che riuscisse, cioè prima che lo decapitasse, esce fuori, vai, prego. Esce fuori appunto questa creatura mastodontica con il corpo inferiore da serpente, con appunto un rosario che tiene in mano per pregare, Liviagon abbiamo appurato, e con il con il volto coperto da un velo, se non sbaglio. No. No. Ok, me la sono inventata io. Scusate. Figo, è fighissimo, però... Fighissimo, però no, scusate. Ma ha letto la notte, si sogna sta roba. Ci sta. E appunto, dopodiché, Naya però è morto. Sì, viene decapitato. Cioè, voi dal cespuglio in cui eravate nascosti, vedete la gente che si accalca sulla spiaggia, il pescione che esce fuori, loro, il vecchio con la maschera che decapita il biondo, e inizia qua la sessione. Ci siamo su sta cosa qua, siamo tutti ok, benissimo. E un secondo e poi vi chiedo uno per uno cosa volete fare. Aspettiamo che parta la musica. Sa che ci mette un'ora a partire sta cosa, quindi intanto vi dico. Voi siete semi nascosti dai cespugli, dalla vegetazione. Avete la mappa davanti su Roll20, se lo aprite. E dovete decidere cosa fare. L'esercito non vi ha notati, quindi avete la libertà di... cioè, avete questo vantaggio. L'essere gigantesco è semplicemente in mare. L'essere gigantesco è immerso dall'acqua, è in posizione di preghiera, è perfettamente centrato davanti alla centrale. Cioè c'è la centrale e lui è proprio di fronte alla centrale. Voi siete quindi leggermente sul suo lato sinistro rispetto a lui. Adesso. Ok. Ma leggermente, perché è 40 km di raggio e la centrale è a 2 km da voi. Quindi siete proprio un pochino più in qua. Master, vai. No, andate voi. L'impero, com'è la reazione all'essere gigante che è immerso dalle acque? Come vi ho detto, il magister, dopo un istante di sorpresa, ha preso la falce e ha ammazzato il biondo. Quindi ora sta prendendo fiato e decidendo cosa fare. Devin è scioccato ed è per terra. Tutti voi siete caduti a terra per il terremoto che è venuto fuori. Tutto l'esercito è diretto a guardare verso la creatura e pressoché immobile. Quindi, cioè, se state a aspettare, vi dico cosa succede dopo. Se invece volete fare qualcosa... Io, per voi più che altro, io casterei Future Glimpse per vedere cosa succede se non facciamo nulla. Quanti secondi in avanti? Cioè... se rimaniamo comunque tra la linea tra il bosco ed effettivamente la radura, stiamo indietro. Se siamo curiosi rimaniamo lì. Mif vorrebbe rimanere lì. Sì, ma allora, tecnicamente Future Glimpse è una cosa che vedo cosa succede, ma non cambia nulla delle azioni che facciamo in questo momento. A meno che non ve lo dica, quindi. Cioè, nel senso, vedo nel futuro. Non lo so, Piani, se dimmi tu. Faccio vedere proprio una manciata di secondi dopo, quindi non è così utile qua. Cioè. E allora lascia. Cioè, lascia. Che Adone lo farebbe di roleplay. Se vuoi te lo faccio di roll. Grazie. Costa 2 di mana, Ok. quindi vai a 1 di mana rimasto. Perché hai 4 di fatica sulla scheda? Ok, Forse non erano aggiornati dall'ultima volta che abbiamo li ho giocato. aggiornati tutti. Ok, perfetto. Hai anche un dado speso. E infatti vediamo. Perché ho settato tutto correttamente. Quello che vedi è che dal bosco non hai una percezione completa e assoluta di quello che sta succedendo, ma in pratica l'uomo con la maschera si tira su e ordina a tutti di andare verso est. Ok, in questo è a momento. destra. Verso la Ok. centrale. Verso la centrale. Sì. Ok. E Questo è quello che basta, vedi vedo solo sì, questo. tra una manciata di secondi, cioè proprio tra un paio di minuti succederà. Solo che noi dobbiamo andare adesso, oggettivamente, adesso. Sì, loro. Hai la mappa davanti? Sì. Cerco di farti il disegno. Loro stanno andando in questa direzione. Ok, sì. Voi dovete andare ad Esboson, che è là, quindi potreste passare o per il bosco e fare così, o andare alla centrale, che comunque non è nella direzione in cui stanno andando loro, cioè, loro Sì. stanno andando davanti alla centrale. Beh, appunto, vedendo questa cosa nel futuro, semplicemente Adone guarda gli altri e dice, i soldati si sposteranno ad est. Intanto cerca di rialzarsi almeno. Io direi che li seguiamo che picchetti. Vuoi Qualcuno seguirli dietro? di voi sa cos'è quel coso? Per quello dicevo di Probabilmente. seguirli che picchetti. Vianic, a me Naya aveva parlato di questa creatura. Ara? Infatti. Non mi pare No. comunque. No, non ti ha parlato delle visioni del libro. Bombo, allora niente. Però è anche vero che l'abbiamo visto. Sì, tu l'hai rivisto. Solo io o tutti? No, no, no, tutti tranne Nibel l'hanno visto nello stesso momento in cui avete aperto il libro. E se non sbaglio, Appunto. Nibel l'ha visto in un secondo momento, quando l'ha riaperto dopo. Ok. Quindi sì, insomma. Quello è. Cioè. Era quello che stava combattendo contro l'angelo? No, No, è allora non l'hai il. visto. È infatti. È il ter... Allora, quando Lito e Adone si stavano litigando per il libro in chiesa, si è aperto e tutti insieme abbiamo visto di nuovo la visione di Esboson con questo serpentone d'acqua, pesce gigante, mezzo umano, e con le mani in preghiera e il rosario. Io ho visto un'altra cosa, mi sembra, nel Sì, libro. non mi Raga, ho ricordavo se. visto l'angelo e il dio meccanico, mi pare. Sì, anche quello. Chi l'ho aperto solo una volta, il libro. Esatto, invece noi l'abbiamo visto due. E infatti ha senso. E Adone continua a cercare di aprirla. Esatto. Quindi, sì, insomma. Meglio fare alla larga dall'esercito e da quella creatura, no? E, beh, la creatura sembra stare ferma, quindi magari è come Iromaru. Iromaru. Tiralo fuori nei belli di Romaro. Lo tiro fuori dalla Dalla giara. damigiana. Hanno gli occhi effettivamente, quindi possono vedere. Sì, le stelle marine, l'ha cercato Ika. Questa creatura C'hanno. qua non ha né gli occhi né due puntine. Ok. Grazie per averlo chiesto. Iromaru c'è una creatura gigante con delle perle con inciso Lidiagon che sta pregando davanti all'isola. Ti ricorda qualcosa? Là. Lidiagon è la divinità che preghi, Del giusto? mare. Ah, no! No, era della morte. Sì, Irumaru prega un'altra creatura, un'altra entità. Beh, dobbiamo solo sperare che questo Lidiagon non sia il dio imprigionato nella centrale, che non venga a distruggerla con una manata tra un minuto o più. Guardo, in questo caso non potrebbe fare nulla a riguardo. Sì, non credo che se questa creatura decide di distruggere l'isola, noi andiamo con quello. Beh, infatti, non penso che abbiamo tante occasioni. Però magari trovarci dall'altra parte dell'isola ci potrebbe evitare problemi. Sembra grande, Nibel, sai? Sì, me ne sono accorto. Forse l'opzione migliore è cercare di andare ad Esbosan il più velocemente possibile ed evitare il. Prendere questa cazzo di mana unit e uscire da questa isola prima che, appunto. Oh mio Dio, sai adesso quanti mostri avrà mobilitato quel coso? Oh. Cioè, proprio visto che si passa una mano sulla fronte, avrà scosso qualsiasi cosa. Quella cosa. Già l'abbiamo incontrato nel viaggio all'andata. Le creature che abbiamo incontrato sono del sud, non dovrebbero essere qui. Sì, però lì è mare aperto. Lì ci sono i mostri più grandi. Lo so bene. Allora, sì, aggirano. Vediamoci. E io ad un vorrei. Giallo. Vedi che mi guarda lieto e fa. Io però vorrei vedere cosa fa l'impero. I cavalli sono impietriti, cioè non si muovono e resistono ai vostri tentativi di tirarli. Vabbè, cavallo per cena, prima cosa. Glieli dobbiamo riportare sani, fra! Se no c'è quell'altro cavallo che quello lì ti usa per cena, altro che come spezia. Vabbè, è più facile, più difficile, è uguale gli animali A per i necromanti. proposito di Glauco, pensate che possa Difficile. fare qualcosa? Glauco contro una cosa del genere? Non lo so. Non lo so, ditemelo voi, siete voi che avete percepito il suo potere da un chilometro di distanza. Pausa. Allora, lei, no. Forse è per la distanza, ma voi non percepite nessuna magia a provenire da questa cosa. Io Dall'isola semovente che è appena uscita dall'acqua. non so se chiamarla isola, è più grande dell'isola su cui siete, quindi forse dal È piccolo un'altra isola, è continente. un'altra isola più Sì. grande. Questa penisola. Ciompi. Vabbè, stronzata a parte. Vabbè, lo faccio presente agli altri, tipo. Non è magica. L'isola gigante che è uscita dal mare. Quindi è veramente un animale? Oh mio Dio. Sì, ma. Io Mauro mi ho dato un tuo amico. O un sasso, perché anche i sassi non sono mai. È un albero molto grande. È un'alga Vero. gigantesca. Un fungo a questo punto. Cioè. Verissimo. Guarda, fra le quattro. No, è un'illusione. Io decido di non crederci e di andare avanti come Vabbè. se Adone sospira, si passa la mano sulla faccia e dice: finché i cavalli non si muovono, non possiamo andare da nessuna parte. Quindi, o aspettiamo che si calmino, e intanto, se volete, osserviamo. tu quello che può parlare con tutti quanti. Beh, Nibel può Parla parlare anche con gli animali. Nibel. Anche Nibel poteva, Più è vero. gli sta simpatico ai cavalli, quindi a posto. Nibel, convinci i cavalli, o questo o il macello. Più che altro. Finisci. Accarezzo il mio cavallo sul collo e chiedo: sei spaventato? Tantissimo. Avremo bisogno di muoverci più velocemente possibile. Se non andiamo ad Esposan, è probabile che non riusciremo vivi. Pensate di poter correre? E ti chiedo un roll e persuasione. Punto forte. E infatti capiscono le tue motivazioni, come ti dicevo, la tua comunicazione è molto semplice, cioè sono proprio concetti base che vengono trasferiti. E l'idea è che capiscono le tue motivazioni, ma sono comunque troppo spaventati per muoversi. Vogliono rimanere nel bosco o tornare a casa. Io mi giro verso Mif e dico: non hai qualche stregoneria per calmare i loro animi? Tipo? No, no, se vuoi mi posso terrorizzare ancora di più. No, Mif tipo fa uno smirk e poi fa: no, questo lo faccio solo sulle persone. Più che altro è morto qualcuno. L'esercito se ne sta andando. Si sono ricompattati. Le mastery sono abilità. Posso usare obolo della la vanità? Puoi rerollare spendendo una mana penny se vuoi. Sì, allora spendo mana penny, ci provo. Mif ti fa Atone. Io più che altro vorrei vedere se magari la persona che hanno appena giustiziato fosse, cioè, viva. No, però magari si può portare indietro. Magari sa qualcosa. Ed è per questo che la giustizia no. Su quello non ho dubbi, ma quanto è distante adesso l'esercito dalla persona che hanno decapitato? E l'hanno hanno abbandonato il cadavere sulla spiaggia e si stanno muovendo rapidamente, a ritmo di marcia, cioè... Ok. Non so qual è il ritmo di marcia dell'esercito, se sono tipo 5 km all'ora, tra un po' saranno abbastanza lontani da poter andare a controllare senza che se ne accorgano. Vuoi fottere l'anima? Tipo... No, lo dice Nibel. No, te lo dico io, cioè. No, per il momento Rox, ti ho fottuto l'anima del personaggio. Sai che sarebbe da scrivere. Ma sai che adesso hai un bel coniglietto nel... Benue. Come si chiama? Penso che Mif ti ammazzi in quel momento. Okay, ha una buona motivazione. Ha una buona motivazione. Se Adone lo farebbe. Vogliamo scoprirlo? Mif lo vuole scoprire. Mif vuole scoprire chi è questa persona. Adone guarda l'esercito che se ne va e dice: d'accordo, aspettiamo perlomeno che siano abbastanza lontani. Sì, sì, beh, di certo non vado a suicidarmi. Non sarebbe la prima volta che lo farei. Infatti, fa questa faccia. Allora attendiamo. State aspettando e li vedete andarsene. E intanto vedete che tutta l'acqua che era addosso alla creatura sta scendendo, formando delle vere e proprie cascate, che però si stanno svuotando altrettanto velocemente, visto che non c'è un ricambio continuo di acqua. E tra i riflessi e tutto il resto vedete che c'ha praticamente delle pozzanghere in corrispondenza delle parti più piane del suo corpo. E per come è posizionato, vedete che non oscura il sole solo perché è mezzogiorno, quindi è perfettamente sopra di voi. Ma appena arriverà l'una del pomeriggio, oscurerà il sole, perché è lì davanti. Poi di nuovo, da quello che si vede del cielo, al crepuscolo e all'alba si dovrebbe ritornare a vedere. Però durante il gran parte della giornata oscura il sole. Questo vuol dire che non è notte, perché non funziona così, però è come se ci fosse un monte davanti. D'ombra. Sì, esatto. Esatto. Bene, aspettiamo. Magari tranquillizziamo i cavalli e dà un pat-pat al suo. Allora, i cavalli si cominciano a tranquillizzare, ma sono ancora incapaci di correre o comunque di seguire i comandi. Dovete portarli, dovete trascinarli per evitare che vadano fuori di testa. Detto questo, la spiaggia è sgombra. Non hanno lasciato nessuna traccia del loro passaggio e riuscite a vedere che l'unico elemento artificiale nella spiaggia è un obelisco di pietra, pochi metri di distanza dal cadavere. Io direi di avvicinarci. Andiamo. E Adone prende il suo cavallo. Tanto devi fare carezzine. Uscite dal bosco e il rumore del mare è cambiato. Molto più tranquillo. Essendoci... È un'isola. Esattamente, essendoci una struttura davanti, le correnti marine non lanciano più le onde altrettanto velocemente. È più simile a un lago, tranquillo, calmo, placido. E il livello del mare si è abbassato visibilmente, cioè riuscite a vedere un blocco di terreno che prima era sommerso, completamente sommerso. E passo dopo passo vi avvicinate al cadavere e tre di voi lo riconoscono. Riconoscete che si tratta di Naya Petri, che due di voi hanno conosciuto durante gli eventi della tragedia della quarantena. Uno di voi in realtà l'aveva conosciuto durante la visita alla centrale e uno poco dopo la morte di suo padre. Il terzo di voi che conosce questa persona era una sua amica di infanzia, di adolescenza forse. Comunque erano una decina d'anni che vi conoscevate, avevate fatto molti viaggi insieme, vi eravate andati a trovare uno con l'altro, vi conoscevate bene. E ora giace a terra con la testa separata dal resto del corpo. Notate, avvicinandovi, che voi avete visto solamente un colpo secco che l'ha ucciso, ma il corpo racconta un'altra storia. I suoi vestiti strappati, rovinati, le innumerevoli cicatrici, segni che ha sul corpo e sui vestiti raccontano che chiaramente è stato quantomeno trattato male negli ultimi giorni, se non direttamente torturato. E Lieto si avvicina. Il cadavere a faccia in giù o faccia in su? Cioè, senza faccia, corpo, ovviamente, decapitato, però. Il corpo era in ginocchio ed è caduto all'indietro. La testa è rotolata di lato, nella sabbia. E riesco a capire se sono i vestiti con cui l'ho vista l'ultima volta? Non sono i vestiti con cui l'hai visto l'ultima volta, sono... li riconosci per la fattura, vestiti da carcerato dell'impero. Ok. E poi guarda le tasche se c'è qualcosa, tipo completamente vuote. Ok, non è che per rubare i cadaveri per vedere se c'è qualcosa. C'è anche rubare i cadaveri, non è un problema. Miff ti dà un coppino fortissimo e ti dà porta rispetto per i morti. No, secondo, stavo cercando di qualcosa di utile. Cosa vuoi che abbia utile un il culo torturato dall'impero? Dai, Lieto, per favore. E posso avere l'anima? Please. No. No. Please. No. Adone ha un'idea molto vaga e quasi nulla di cosa sia un'anima. Tu neanche quello. Ok. Adone si avvicina al corpo, poi guarda Miff e dice: Medikit non risolvono questo, vero? No. Medikit non ti riportano in vita. L'inizio che si sta toccando spesso il ponte del naso, come se stesse nascondendo le lacrime, ha gli occhi lucidi, si avvicina verso la testa, no? La prende. Ha gli occhi aperti? Eh sì, è rimasto chiusi. Glieli chiude, no? Insomma, si inginocchia sulla sabbia, si mette la testa in grembo e, come per tranquillizzare se stessa, gli accarezza insomma i capelli e inizia a piangere. No. Possiamo qualcosa di più triste come sì, musica? Per favore. Ho dovuto mutare il botto della musica. Esatto, anche io sto facendo fatica. Grazie. Gianni, dimmi. Aspetta. No, vuoi una canzone? Te la do io. La stavo cercando. Oh, mamma mia. Troppo? Va bene. Va benissimo, vedete che inizia a piangere, inizia a singhiozzare, no? E a sfogarsi, insomma. Tiene stretta a sé la testa. Mago dipinto horror, oltretutto. E però non ha importanza, lo conoscevate? Io poco, loro un pochino di più. Naya e Miff erano amici da tanto tempo, più tempo che me e lui, ovviamente. Una giornata, praticamente, cioè, ci ho fatti insieme forse 48 ore at best. Quindi la conoscenza di passaggio. Adone sospira e si inginocchia di fianco al corpo, perché lasciami il suo momento. E Master, ce l'ha l'anima, Naya, non la voglio prendere, ma ce l'ha effettivamente. Dimmi cosa vuoi fare, cioè. Adone prova a prendere la mano di Naya e l'accarezza un pochino come se fosse ancora tutto un corpo intero e come a consolarlo in un certo senso. E dopodiché dice anche, queste cose le dice un po' fra sé e sé, dice: spero che tu non abbia sofferto quanto io ho paura sia stato per te questi ultimi tuoi giorni. Vi chiedo a Mif e Nibel o di mutarvi o vi sposto un minuto e poi vi risposto. Come preferite. Metto nella carrozza. Perfetto. Okay. Io posso rimanere qui? Sì, sì, sì. Ok. Il vostro tentativo di interagire con l'anima ha un side effect, ovvero stabilite una specie di connessione. E quindi da qui in poi io vi racconto una cosa che è percepita a un livello spirituale e non fisico. Siete entrambi in piedi davanti a un precipizio scurissimo, nero, un abisso. Dall'altro lato dell'abisso, che è una decina di metri, non è enorme, vedete che il mondo continua normalmente e dietro di voi sembra fare lo stesso. Ma in quel punto dove siete, l'abisso è infinito, va giù a oltranza, non c'è una fine. E la parte di Naya che vedete in questo mondo sta sprofondando all'interno dell'abisso, sta cadendo per sempre. Nello specifico, Lieto, tu percepisci te stesso come una fiamma azzurra, e Adone, tu percepisci te stesso come un branco di conigli, si dice branco? Una colonia di conigli, quello che è. Un pod. E c'è una specie di obelisco a mezz'aria sopra questa faglia e vedete che continua verso nord e verso sud-est tantissimo e si allarga man mano che va verso sud-est, mentre si stringe mentre va verso nord. Tipo a clessidra? Tipo... Ehi? Ok, voi siete in questo punto qua e questa cosa fa questa cosa qui. Ok, avevo capito in un altro Non modo. Così tanto, non così drammaticamente, però va allargandosi e quindi realisticamente verso sud-est c'è un punto in cui ha larghezza massima e andando verso nord c'è un punto in cui si stringe del tutto. Vi vedete reciprocamente nel modo in cui vi ho descritto e potete comunicare tra di voi segretamente. Perché sei qua? Cuoque. Anche tu sei qua. Adone guarda l'anima, cioè sta, è tipo l'anima di Naya che sta sprofondando. La percepiamo come Naya la persona, immagino. Quella che sta... sì, ok, esatto, immaginavo. E si dubito che riesce a prenderla e guarda tipo nel precipizio dietro. La fiammella di dietro tipo è piegata. Più che se riusciamo a prenderla e se dovremmo. E l'obelisco ha una forma particolare? C'è qualcosa di notable? A te è familiare perché ricordi di averne già visto uno uguale, oltre a quello che è una copia dell'obelisco che c'è sulla spiaggia, ed è pressoché identico a quello che avevi visto nel nord del regno Sefino da un anno e mezzo fa. Non ti sei mai chiesto cosa fosse quella cosa lì? La colonna che avevo trovato, sì, a me ho qui nascosto il... Ok, ok. Oh. Ora è... immagina che ci sia un buco e c'è questo coso fluttuante a mezz'aria, quindi a 5 metri di distanza da voi. Ok. E quello l'ho già visto, però non ho mai investigato su cosa fosse. È un oggetto reale, cioè esiste in più parti del nostro mondo. Io lo guardo, mi dice qualcosa a me, Adone? No. Rigel? Uno dei conigli, che finora era un coniglio, si trasfigura e diventa un essere umano vestito di nero, non tanto alto. Lo vedo anche io? Sì. Hai detto cosa chi sia è quello? No, no, buono, buono. Chi è quello? Sono il Brigel. Dio della morte. Sì. Il cosa? È l'ultimo dio della morte. Sì, uno dei tanti. Piacere. Si guarda intorno e poi ti stringe la mano, confuso da questa cosa, questa interazione. Fa parte di me adesso. Ah, ok. Brigel, hai idea di cosa sia questo brisco? Ci pensa un attimo e poi dice: dovrei parlartene, e indica Lieto, mentre lui è qui? No. Spiegami piuttosto, secondo te riusciamo a recuperare l'anima di Naya? Guarda verso il basso e ti guarda. Da qualche parte questo buco porta. Se riesce a arrivare fin lì, forse, altrimenti è bella che andava. Adone guarda un attimo giù, poi guarda Lieto e dice: beh, allora direi che è andata l'anima. È il momento di saltare. Puoi saltare? Sicuro? Andiamo insieme. Io preferivo non prenderla l'anima di Naya. Lieto allunga tipo il beccetto fatto di fiammella. Andiamo. Miff si incazzerà. Mentiremo e diremo che non c'è niente. Adone prende la mano di Lieto. Katabasi. Da... definizione letterale credo sia il viaggio verso l'inferno. State per fare una cosa incredibilmente stupida, non so se vi era chiaro il concetto, ve lo sto spiegando. Vi lanciate a peso morto, cioè fate, ok, camminate verso il basso, giusto? Benissimo, iniziate a cadere nell'oscurità e sentite che c'è come una forza che vi repelle, come se foste attaccati a qualcosa che vi impedisce di scendere fino in fondo. Ma questo non vi impedisce di scendere lentamente, come una piuma che lentamente arriva in basso. E vedete che ai vostri lati le pareti nere si fanno sempre più strette. Non così velocemente. Erano 10 metri nel punto iniziale, diciamo, e diventano un pochino più strette man mano che scendete, cioè ogni chilometro un metro. E quando siete scesi a sufficienza, vedete che non sono più pareti di roccia nera, come erano le prime, ma sono pareti lisce, superfici perfette, non possono essere naturali, devono essere qualcosa di artificiale, ma soprattutto sono artificiali perché su tutta la loro superficie sono incise delle lettere di un linguaggio che non conoscete, riempite di un fluido giallo. Sono rettangolari, hanno delle forme molto rigide, molto precise, sembrano vagamente cuneiformi. Questa cosa riempie completamente lo spazio che riuscite a vedere e percepite che il buco non va verso il basso, ma va verso il centro di questa faglia, che probabilmente è verso sud-est. E okay. Continuate a cadere sempre più lentamente finché arrivate a un punto in cui non riuscite più a cadere, cioè rimanete fermi a mezz'aria. E siamo ancora lontani dalla... Siete lontanissimi dal fondo e siete lontanissimi dal punto centrale della cosa. Chilometri, parlo. Mentre Naya chiaramente ha superato questa cosa e è andata avanti. Non credo che il gioco valga la candela, Lieto. David non è David, se... il tuo amico non è sceso con noi, vero? Tecnicamente sì, Rigel è parte di me. Rigel. Non è sceso con voi, siete solo voi due. Ok, Adone dice no, non è sceso. E... credo sia meglio che torniamo su. E arriva a toccare tipo uno dei muri. Sì, sì, sì. Quello tipo toccare. Il muro in sé è liscissimo, è quasi innaturale, è come toccare uno specchio ma ancora più liscio. E le cavità hanno un fluido e questo fluido ignora completamente tutte le regole della fisica che conosci, perché se tu ci infili il dito non esce fuori, ma avvolge il tuo dito ed esce leggermente per permettere l'entrata senza cadere di sotto. Come se la gravità per il fluido andasse verso sinistra e fosse estremamente viscoso. Ok. Va bene, sì. Possiamo anche provare a risalire, I guess. Adone prende sempre per mano Lieto e prova a saltare banalmente con le sue gambe da coniglio. Come un elastico, peso al massimo, ritornate rapidissimamente sul precipizio. E Rigel è lì, che un po' scocciato dice: solo i morti possono superare questa cosa. Avete ancora un corpo e non potete andare oltre. Devi dirlo prima che ci buttassi. Ci tenevi così tanto. Beh, sappiamo che effettivamente Rigel, ho una teoria, ma tu sai cosa c'è lì sotto? Nel senso, chi è che ha preso l'anima di Naya? Non è una persona, se è quello che mi stai chiedendo. E di nuovo, vuoi che ne parli con lui presente? È un'altra divinità. Non è un diavolo, credo. Assolutamente no. No a cosa? La divinità o al diavolo? Entrambe le cose. Ok. È qualcosa di... Dito che non accenna a stare zitto. Quella è l'origine. La spaccatura da cui tutto ha avuto inizio. E nei secoli l'hanno chiamato caos, cosmo, Satana, Dio. Credo che il suo nome preferito sia Yimanu. Yimanu. Ho avuto una vita breve prima di ascendere e non ho potuto scoprire granché, ma il nostro comune amico, e guarda Adone, mi ha accennato che il modo più veloce per raggiungere il suo scopo era uccidere chiunque abbia preso il suo posto al momento. No, sono confuso io, Sirio. What? Non ho capito quello che ha detto Rigel proprio. Ok, te lo ripeto o devo cambiare modo in cui l'ha detto? Cambia modo in cui l'ha detto, perché... cioè, credo di aver capito, ma non ho capito. Noi abbiamo fatto la conoscenza di un'entità particolare. Mm-hmm. Che ha dato a entrambi un compito. Mm-hmm. E nel breve tempo che ho avuto per parlargli... mi ha detto che il modo più veloce per raggiungere questo obiettivo era uccidere Yimanu o chiunque abbia preso il suo posto al centro della Nadiria. Ok. No, sono ancora confuso. E Rigel lo commenta dicendo... ti vedo confuso. Lieto è tipo c'ha il taccuino con... no, taccuino no. Di fuoco, una penna di fuoco. Aspetta che prendo appunti sulla mia macchina da scrivere invisibile. Non so se chiederti questa cosa in... no, ma io non ho capito di che cazzo sta parlando Rigel. Dovresti dirglielo. Ok, perfetto. Dice: Rigel, ma di chi stai parlando? La creatura sulla torre. Che c'entra? Ho capito. Mi... voleva portare la vera morte. Ah, ok, sì. Io, Sirio, continuo a essere un attimo confuso, però... ti vedo. Ma aspetta... Aspetta, ma la vera morte aveva detto che voleva uccidere... Ah. Ok. Ok, scusate, ci sono. Allora, ci penso un attimo e dice... Ah. Oh. Ah, ok, ha più senso adesso quello che era successo. Ci penso un attimo e dice: beh, il fatto che Naya sia andato lì è una cosa positiva, nel senso, a questo punto smetto di parlare per mezze misure, magari lui riesce a spiegarti meglio i concetti. Righe era un pezzo di merda, te lo ricordo. L'hai creato tu. Sì, sì. Queste sono le ley line nadire. Sono delle faglie che nel corso dei secoli sono state segnalate con quelli che indica il pilastro. E le persone che muoiono vicino alle faglie, diciamo che le loro anime non vanno dove dovrebbero andare e finiscono nella nadiria a nutrire i nadiri. Ok, grazie per la spiegazione, Riegel. E anche io il contrario, Eagle, per caso. Ovvero? È possibile fare delle cose che normalmente non sarebbero possibili fare vicino a queste faglie? Le faglie credo che si limitino a mangiare, quindi a consumare qualunque anima o energia. Alcuni tipi di magie vengono indeboliti o cancellati in loro presenza. Se esistono dei sigilli, diciamo che la loro forza è ridotta. Quindi su quest'isola c'è chiaramente un... ci passo chiaramente una faglia, tra l'altro. Certamente. Ci sono ben potrebbe dei pilastri essere... sull'isola. Potrebbe essere che delle creature magiche vicine a queste leyline appunto vengono indebolite? Tranne che nell'Anadire, immagino. È possibile, ma... in genere quando usi la magia... una gran parte della sua forza viene rilasciata nell'ambiente. Nelle leyline questo non succede. Mm. Time out del game un attimo, però. La dire, non era un posto geografico, fisico? Sì. Sì. E dove... ok. Dove si colloca? Sì, dove... a sud-est. Grazie per averlo chiesto. Ok. Infatti, perché... vabbè, facciamo... terminiamo sta cosa così possiamo tornare anche... effettivamente. Stiamo durando tantissimo. Sì. Ok, comunque a questo punto... allora dice, beh... possiamo tornare indietro adesso. Ma quindi... dobbiamo andare a sud-est? Per? Dimmi tu andare a sud-est, a quanto dice il tuo amico in ogni caso. I guess. Scusa, sono... io e Siria sono abbastanza lost in questo momento. Però... I guess, yeah. Piani, ci fai di sì con la testa? Se ne vede, no. Se, dipende qual è il tuo obiettivo. No, è che io a questo punto, dopo mi devi un attimo rispiegare la conversazione che ho avuto con Adone, perché a questo punto mi sono perso dei pezzi. Bene. Adone sta cominciando a non ricordarsi più le parti di sé. Boom. Molto bene. La magia si interrompe e ritornano. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Avete visto che Lieto e Adone sono... si sono incantati per un minuto intero, durante il quale, se volete interagire fra di voi, potete farlo, se volete provare a svegliarli, potete svegliarli, ditemi voi. Mif è ancora con... sì, sì, sì, Teri, chiaramente. Aspetta, in game... esatto, in grembo che sta piangendo e appunto... se Nibel le è vicina, senti che sta continuando a ripetere le stesse parole, una cosa di questo genere. Maledetti, maledetti, maledetti, dovranno pagare tutto, maledetti, maledetti. Cosa dico a tua zia adesso? Cos'è che dico a tua zia? E continua, così. Io penso che Nibel non abbia le capacità per sostenere emotivamente delle altre persone, quindi Fa la cosa che riesce meglio, si allontana di lì. E vedo, c'è l'obelisco, vado a dare un'occhiata all'obelisco e gli lascio quell'orlutto. Ok, che è più o meno il tempo che ci mettono a finire sta la loro interaction. L'obelisco è molto antico, cioè, partiamo dal fatto che ci avrà un paio di millenni. Ha delle incisioni geometriche, non sono dei simboli, non sono dei geroglifici, sembrano decorativi più che altro. E emana una faint energy che riesci a percepire grazie ai tuoi nuovi poteri da druido. Tuttavia, a meno che tu non voglia fare un roll, di base non ti dico niente di più. Per ora la voglio osservare dal punto di vista puramente visivo, per vedere se riconosco qualcosa. Non credo proprio, però Nibel non penso che sarebbe così indirizzato a cercare di analizzare magicamente, almeno per ora. Sì, esatto. Forse hai già visto una roba del genere su qualche altra spiaggia, però cioè non ci avevi fatto tanto caso, non ci avevi dato tanta importanza. Che è tipo da Peira, sì. Visto che non sono andato da altre parti. Ok. Allora rimango lì un attimo ad osservarlo, ogni tanto tiro un'occhiata agli altri per vedere se si sono ripresi, e quando vedo che sono un po' più in loro ritorno al gruppo. Lieto e Adone, vi riprendete, vi guardate perché avete un attimo di e vedete che c'è Mif che sta piangendo e Nibel che è un po' più in là a guardare l'obelisco. E appoggio la mano a terra a quel punto, invece di posare, e si alza in piedi. Io mi avvicino a Mif e mi inginocchio, le metto tipo una mano sulla spalla e non porto bellissime notizie in realtà. Adone si avvicina e tira uno schiaffo in testa a Lieto e lo tira per il colletto. Lasciala! Non esiste il termine in italiano, però gli dice lasciala stare, in lutto. E la trascino via. È una cosa che dovrebbe sapere. Fra un secondo! Cioè, mi fa letteralmente che questa scena, no? Vi guarda, ok, gli occhi ovviamente vuoteri e il trucco sicuramente si è colato un pochino. E ci guarda e fa, che cazzo state facendo adesso? Io sono in vena di ammazzare qualcuno, ragazzi. Il primo che mi capita sotto tiro lo torturo di incubi. Le tiro su Lieto e lo uso come scudo. Dico... sei alto tipo mezzo Lieto. Vabbè, guarda. Dai. Vabbè. Cioè, ne dice, fra... un secondo, possiamo parlartene fra un secondo. Mi si asciuga pian piano le lacrime. Fa... forse possiamo portarlo ancora da un necromante, non so, con la testa tagliata, come se la cavano quegli altri. Magari riusciamo a portarlo dietro. Questa è la reaction di Lieto. Ascoltami, Mif. Non credo lo riusciremo a riportare in vita. Beh, guarda la testa e fa, potrei anche comprendere, onestamente. No, il motivo è, sospira e indica l'obelisco. Quello è, diciamo, un po' il motivo per cui non riusciamo a portarlo in vita. Cos'è che fa l'obelisco? L'obelisco segna una ley line. Possiamo usarlo questo termine, Pjanic? Non c'è in italiano. Biff che ti guardano e fa... Che significa, Adone? A quanto nel pare... Nel mondo... Vuoi spiegarlo tu, Lieto? E l'anima di Naya sta andando in un posto diverso dal posto in cui vanno le anime di solito, a quanto pare. E... dove? A sud-est, da quel lato. Sta andando in Nadiria. Sta andando in Nadiria. E a quanto pare chi muore lungo queste ley line finisce, la sua anima finisce intrappolata e va a nutrire i Nadiri. È la prima volta che senti qualcosa del genere. Sì, sì, infatti, quindi... Mi guarda tutte e due, no, e fa... Perché dovrei credervi? Perché puoi controllare. Hai horoscope. Puoi controllare il numero delle mie anime. Ti sei ciucciato l'anima di Lieto? Di Naya. A Lieto? No. E infatti dicevo... di lontananza di... Esatto, è colpa di Sara, questa non di me. Ok, Adone, appunto, sapendo che Lieto Naya dice... No, Mif, puoi controllare, come ti ho detto. Non abbiamo... Né io, né Lieto. Abbiamo preso l'anima di Naya. Appunto, lo puoi controllare. Le informazioni vengono da una cosa poco discutibile. Cioè? Vengono da me. È un'entità poco discutibile. Perché le vedi ancora peggio. E chi lo vuoi dire, tu? Da dove vengono queste informazioni o glielo dico io? Da un'anima che ho preso con me. Ok, va bene. Ah. Ok, pensavo a qualche altro dio nel sistema. No. Lieto sta morendo soffocato. Mi morde. Sto mangiando qualcosa. Quindi sì. Volevo aspettare, ma un minuto per dire queste cose, Lieto. Non mi sembra che ci abbiamo molto tempo da perdere, tra l'altro. Sarebbe il caso di... Non farci nulla! Dargli una sepoltura. E devo contattare sua zia. Questa è un casino. Cosa? Non ho sentito. Un'ottima sepoltura. Cioè, questa è un'ottima idea. Dobbiamo contattare sua zia. Questa è una pessima idea. Sì. Gli è morto il nipote. Penso sia... il minimo farglielo sapere, e secondo me sarebbe anche giusta la sua rabbia. Sì, però magari preoccupiamoci un attimino della nostra pellaccia, poi possiamo... Non lo lasciamo mica qua! No, ma appunto... Perché stava di nuovo per scoppiare a piangere, no? Intanto... Oh, sì. Ah, ascolta. Va bene, lo facciamo adesso, vado a chiamare lì il tipo. Ce n'è ancora il piccone, no? Martello, sì, certo. Martello. Sì, succhiamo ad Aya. No, non ho detto. Mif vorrebbe scavare una tomba per il corpo di Aya. Non c'è problema, però conviene andare nel bosco qua, non durerebbe tanto sulla spiaggia. Allora, dammi una mano col cadavere, I guess. Certo. Era molto alto, ma molto magro. Quindi... riuscite a portarlo senza troppi problemi? Io porto la testa, tu porti il cadavere, yes. Io prendo il corpo, il braccio, così. Come gliela togli la testa, visto che ce l'ha Mif? Infatti. Ah, ce l'hai tu la testa ancora in mano? Sì. Ok, no, allora te la porti da sola. Sì, sì, me la porto io. Io cerco nel bosco una zona un po' più interrata, magari una zona del bosco che... è un po' più aperta, dove il terreno non ha troppe radici, che è facile scavare, dove eventualmente mettere una lapide approssimata o cosa del genere. Non, a parte che Nibel credo che non abbia neanche l'usanza, perché si cremava. Allora magari lo chiedo agli altri. Com'è che... Posso fare un momento fuori out of game? Io sull'inventario mi sono scavato la testa di Naya e mi sa che farò una foto e la metterò su Instagram. Vai. Non sarò io a fermarti. Ma potrebbe mai andare storto. Tanto non ti segue nessuno. No, certo. Andate avanti, riesco a rullare. Cerco un posto adatto e poi chiedo agli altri. Non è mia usanza sotterrare i cari mancati, quindi posso fare il lavoro sporco, però... Ma è falso che ci penso, effettivamente non è particolarmente necessario. E Lieto si avvicina tipo al posto scelto dove Nibel ha appoggiato tipo il corpo e casta litogenesi per creare tipo con la pietra un santuarietto, un tubolo di pietra. Ti tolgo il mana e ti do esperienza. E allora ormai è il dietogenesi comunque con l'incantesimo. Sei già tanto il mana o ti mancava 5 perché sapevi che avresti usato litogenesi? Non darò il 20, è da... Ok, io l'ho messa su Instagram, ragazzi. Appena adesso. Hai scritto Naya Petri, vero? Non mio cognome. No, ho scritto Naya e basta. Va benissimo. Va benissimo, Naya e ho scritto la fine di un'era, punto. Per rimanere vaghi, il giusto. Vaga? Vai. Avete creato un piccolo santuario di pietra. Spoglio e senza ne ho abbastanza controllo su litogenesi per tipo scrivere nella pietra. No, ma mentre è ancora calda puoi con uno stecco tracciare quello che vuoi. No, c'è okay. Il peccone, posso incidere col peccone. E nomi e cognomi qui giace Naya Petri. Mi fa sa anche la data di nascita, credo. Allora, a 28 anni Mif ne ha 26, no, quindi il giorno. Non mi ricordo il giorno. Sirio. Guardando. Okay. Quando è nato Naya? Sì. Si vede che stai guardando, sei molto concentrato. È bloccata. Guarda come parlo bene, ventriloquo. Una mano nel cuore. vabbè, dai. Ventriloquo hai detto tu. C'era, secondo me c'era, l'ha c'ho fatto. Tutti tranne quello di Naya. C'ho Adone, Erendor, Ivan, Gideon e Zanzan. Magari bellissimo. C'è scritto su quello di Naya? Ce l'hai ancora la sua scheda? Clivorox? No. Sì, forse sulla scheda c'è scritto, dammi un attimo. Provo a vedere, magari. Non c'è scritto. No, sito 27. 21 maggio. Yeah. Mamma mia, schizzo posting di Rox. Ci fa qua ancora ridere. No, non lo trovo. Comunque puoi scrivere la data esatta perché Mif la saprebbe. Sì, Mif lo saprebbe. Okay. Vabbè, scrive la data, scrive la data di nascita e la data odierna. 9 luglio. 9 luglio. Poi okay. Tipo, vedete che si infila tipo la mano tra veste e tira fuori un oggettino e lo appoggia tipo sulla tomba. È l'oggettino che ho trovato prima. Clearly master. Ho una domanda. Ci spostiamo o... Sì, vai, spostami, vai, spostami. Arriviamo subito. Cavolo, ci sarà il silenzio. Dimmi tutto. Credo che sia la prima volta, ma finalmente hai tra le tue mani una divinità. Ok. C'è un piccolo dio dentro quel triangolino. What the fuck? E ok. Ora hai la scelta. Non serve che te lo mangi tutto, ok? Probabilmente è più una roba, come dire, simbolica. Se gli dai un morsetto... puoi consumare una divinità. Non sai cosa sia, però, cioè, sarebbe come mordere il cibo misterioso. E cioè, lo scopro con Lo percepisci? Che cosa mi trasmette il... Ha lo stesso vibe di Riegel. Del tizio che hai visto prima. Insomma, lo ingoio per intero. Probabile. Sì, no, no, me la mangio. Tutta? Posso scegliere? Tipo, sì, sì, sì. No, no, per capire che, dobbiamo dire, non metti un cazzo sulla tomba. Cioè, retcon di questa cosa. L'oggetto rimane lì, I guess. Ah, no, no, devi proprio danneggiare l'oggetto in qualche modo per poterlo... Ah, ok, sì. Oh, ok. Anche se lo faccio parzialmente, quindi. Sì, va bene anche parzialmente. Allora, no, è una roba completa, lo mangio tutto. Perfetto. Ah, sono già arrivati. È stato molto veloce. Ti sei bloccato in un momento spaziale. Vabbè! Che troia! Secondo me c'è l'elfo che sceglie dove si blocca la web. Esatto, anche. Minor inconvenience, God. Veramente. Aha. Che oggettino ha posato dietro? Infatti. Lo lascio a te. Lo faccio io. È un... triangolo azzurro al quale manca un pezzetto. Triangolo proprio non l'avevo considerato. Come una medaglietta, però di cui è rimasto solamente il ciondolo. C'ha anche l'affare del ciondolo per agganciarlo a una collana o qualcosa del genere, e gli manca un pezzetto. Facevo un tipo religioso. Oh, non è mio. Di chi è? Era sul cadavere di Naya. Lo sto restituendo. Non me l'aspettavo da parte tua. Non vale che metti un belino di niente, ma fai di legno, non lo vedi, lo poggia tipo. Semplicemente resta in silenzio, insomma, guarda la tomba e resta in silenzio, tranquilla. Io direi che abbiamo ancora un'isola di cui occuparci, quindi mi muoverei comunque. I cavalli sono tranquillizzati e sono pronti a muoversi, anche se saranno titubanti se andate verso la creatura. Vogliamo andare in città? Vogliamo andare verso l'esercito dell'impero? Se andiamo verso l'esercito dell'impero, io li voglio tutti morti. Tipo, cioè, deadpan Sirius, ok, Sirius? Scusate. Cioè, guarda dietro, veramente, seria, è la prima volta che non la vedi. Cioè, con lo smirk in faccia. Fabio, si meritano veramente tutto il male che potrebbe esserci in questo mondo. E ce n'è tanto. Il Magister è quello che avevo incontrato con Maria, no? No. È un altro? Sì. Ah, ok. È un uomo, quello era una donna. Ha una maschera bianca e umana. Nessuno di noi conosceva questo Magister. Ditemi voi. Non l'abbiamo visto. Io lo conoscevo. Ok, va bene. Era mio zio. Facevamo le scuole insieme, ok? Era un po' ripetente. Giusto delle 70 bocciature. Ma stiamo ruolando questa cosa? No, sì, questa è la ruolata terminativa. La voce di Dio, lo conoscevate? A farla il demone lì, lo conoscevate? Dico gli altri, considerando che un magister e magister e Maria stava sotto una persona come lui, la volontà di farli fuori tutti non credo che basta per portare effettivamente a compimento l'atto, quindi... Io non credo di riuscire a fare il trucchetto dell'altra volta, quindi... Mi sorride a Nibel e gli fa: guarda, io l'altra volta sono riuscita ad addormentare quell'altra, quindi onestamente non penso avrò problemi. Master, mi fa, cioè, era troppo distante questo cazzo di Magister perché lo riconoscesse. Cioè, genuinamente, secondo me era troppo distante. Se mi dici che riesci a riconoscere lo scettro a 2 chilometri di distanza, we roll with. È che mi pare 10. Che questo qua, tu hai detto che lui era l'unico Magister che aveva la maschera bianca. Perché normalmente hanno la maschera nera. Sì, lei l'ha visto senza maschera. Ok. Ehi, devo aggiungere qualcosa? Sì. Cosa devo aggiungere? Hai ampiamente riconosciuto l'uomo. Non tanto dal fatto che sia... Beh, sì, dal fatto che è un Magister e dal fatto che ha 90 cazzo di anni e in questo mondo nessuno ha 90 anni. Cioè, le persone di 90 anni le contiamo sulle dita di una mano. Per cui, per una semplice questione statistica, hai un'idea molto chiara su chi sia quell'uomo. E anche dal fatto che l'avevi visto coincidentalmente proprio insieme a un ragazzo dei capelli neri simile a quello che era sulla spiaggia con lui. Esattamente. Motivo per cui hai un'idea molto precisa di chi sia. E adesso mi date un attimo. Perché il nome? Ok, perfetto. Sì, sì, mi riprendo il nome. È stata fatta la domanda del magistrato? Sì. Non ho capito, mi l'ha sono persa. Nibel ha chiesto... Ok. E Mif fa un lungo sospiro e fa: quel Magister è stato mio cliente un po' di anni fa, quindi sì, sono sicura che sia lui, anche perché è un uomo molto molto anziano e ce ne sono gran pochi. E che tipo di così tanto anziani? Cliente. Contratto magico per un permesso speciale per dei medikit, dovrò fare degli esperimenti su un demone? Sì, se non ricordo male, era su un demone. Di nome Aidos. Demone non diavolo, vero? Di Aidos, demone, sei tirata sì. Fuori tu dal culo. Devin l'ha chiamato Aidos. Devin l'ha chiamato Aidos. Non credo no? proprio. Ok, cancelliamo. Non credo proprio. Cancelliamo. Anche se è rosso. No. Damn. Non avete sentito nulla di quello che ha detto, non perché non era nulla. Vero. Ok, bene. Non era non vero. Non me lo sto puntando, quindi me lo dimenticherò appena finisce. Grazie. Questa sessione. Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Perché A, non parlavano di Aidos, B, Mif non ha idea di chi sia, quindi... Oh, sto bene così. No, no, non lo segno nessuna parte, se ne andrà. Esatto, calma. Esatto. Su un demone. Avevano bisogno di fare degli esperimenti su un demone, e visto che non si categorizza come umano, dovevano sistemare il contratto. E è un mago. È un mago che sa il suo. Beh, sei arrivato a 90 anni. Deve aver venduto l'anima al diavolo. Mi ferida che fa... No, però... Sa le spell, cioè sa gli incantesimi, quello che può castare Nibel con il manapenny senza bisogno di un manapenny, quindi... È stato un Maiklon? Esattamente. Okay. E senza un'altra. Sì, senza manapenny. Sì, gli ho fatto horoscope, e... molto intelligente, vero? Non ero una cima anni fa. E... ed è venuto fuori la pletora di magie altissime, cioè non ho mai visto così tante magie conosciute da un uomo. Non okay. Mi sembra fisicamente impossibile, onestamente. E quindi sì, probabilmente sarebbe tosto da affrontare. Quindi lo vuoi andare ad uccidere o... Are we feeling about it? No, lo voglio andare a torturare. Mm. È diverso. Mi stanno salutando. No. Che bello. Piano di Transformers 1, Sara. Veramente. Considerate che con quell'incantesimo, quando potevo usarlo ancora al massimo della potenza, ci ho fermato un meteorite, quindi se può usarlo a volontà. Non lo so, ne ha tanti altri, secondo me non è neanche il più preoccupante, onestamente. Quindi non mi ricordo, non so gli altri, non me li ricordo onestamente. Quindi direi che l'opzione di andarci addosso a testa bassa non sia la migliore di quelle che abbiamo al momento. No, no, no, ma sarebbe bello spremere una persona del genere. Vabbè, ci abbiamo un'isola, può spremerla, ovviamente, basta convincerla. You have so much in common. In ogni caso abbiamo poco tempo, quindi se volete passare ancora qualche minuto alla tomba, fatelo e poi partiamo. No. Io avrei una cosa da chiedere a Nibel, I guess, che è il... L'isola semovente, galleggiante, gigantesca, abbiamo stabilito essere un animale. Ci puoi parlare? Stavo pensando, effettivamente, forse dovremmo avvicinarci. Non credo che la mia voce possa raggiungerlo. Altrimenti posso parlarci io, posso parlare telepaticamente. Ha un raggio di 10 metri e questa cosa è a 20 km da voi. Se vuoi, simuliamo il meteorite di Diru e cerchiamo di lanciarti. Ci avviciniamo e basta, mamma mia! Cerchiamo di lanciarti verso l'animale gigante. Sì, tipo Tao Pai Pai di Dragon Ball. Vabbè. E... vabbè. Comunque mi piace che per la prima volta nella vostra vita avete scelto la diplomazia ed è contro The Creature. Vabbè, ci sta. Ma certo! Devi sempre riconoscere quando i tuoi limiti sono raggiunti e un'isola di 20 km e c'è la linea. Minchia. Giusto. No, ci sta, ci sta. Prima di andare, Adone vuole rimanere lui adesso da solo un attimo con la tomba di Naya e Viane ci scrivo quello che dice Adone alla tomba. Sono curiosissimo. Davvero o sei ironico? Sì, non ho idea di cosa mi stai per scrivere. Vogliamo fare 5 minuti di pausa? Come no, volete? Dai. No, ci sono stati 20 minuti di vuoto. Avete ragione, avete ragione. I cavalli si sono ripigliati? Sì, vi avevo detto di sì. Allora facciamo che ci avviciniamo alla creatura con i cavalli. Intanto ti scrivo. Nessuno dei cavalli è Gesù Cristo, però. Non so se l'avevo specificato sto dettaglio, però non camminano sull'acqua. No, ho capito, ma scusami, rispetto al ti odio, perché te la devo tagliare giù così tanto fine? No, perché hai detto una roba, io l'avevo interpretata così. Ci avviciniamo passando, siamo nel bosco. Sì, ok. Ci avete... Si è mossa verso la spiaggia la creatura oppure è perfettamente immobile. Se avete 6 km da camminare di spiaggia per arrivare ai cavalli, i primi 3 km circa li fate seguendo la strada che hanno fatto gli uomini dell'impero. Arriverete qua, se state guardando la mappa, che è il punto più a sud. Non guardate l'altro punto della mappa che è più a sud, per favore, che è il punto più a sud e più vicino alla creatura. Ma c'è un altro punto di sud. Quanto hai detto che dista? Allora, le misure sono corrette sulla mappa, quindi se prendi il righello sono giuste. Allora, fin qua arrivate al bordo della spiaggia, quindi circa 6 km. No, la creatura... ok, sì. Una ventina di chilometri, più o meno così. Dovete immaginare... Questa è la mappa. E io sono in scala. Ok. Quella posa a due preghi. Certo, però non riesco a farlo con la mappa, quindi... Puoi sempre far andare giù la cam. Non so che cosa vuoi vedere. No, non è andata abbastanza giù, porco Dio. Questo è il vostro punto di vista da... Troppo giù. Più su. su un pochino. Hai visto la pausa di 5 minuti comunque è stata fatta. Esatto, è stata questa. Sì, che volevo usarla per bere e invece impossibile fare sta cosa. Si vede che non hai un OnlyFans. Eh sì. Non c'ho una telecamera che mi ha regalato Ludovica Spina, certo, però no. Mamma mia. Quello è il primo indice. Comunque. Ora vado a leggere. E intanto potete interagire fra di voi mentre ve ne andate. E c'è, ci sono 20 km di mare per raggiungere. Oddio, non so se sono necessari in realtà, perché se è davvero grande come l'ha descritta, hai chiesto anche metà della strada, è sufficiente. Cioè, siamo già sotto praticamente ora. Sì, sì, sì. La, le... la testa è praticamente sopra la centrale. Voi siete un pochino fuori il, la sua cosa perpendicolare alla testa, diciamo, la, la, la proiezione della testa. Mm. Per quello vi dicevo che essendo mezzogiorno non avete ancora l'ombra. Prego, esatto. Comunichi con la creatura. E comunque forte. Svariati chilometri sopra di voi. Esatto. Ah, siamo davvero sicuri di voler disturbare qualcosa che al momento è innocuo? Si può evitare di farci ammazzare, perché no? Penso ci voglia far ammazzare. Ok, ho deciso di fare una cosa. Arrivate a un punto, se fate tutto il percorso della spiaggia e mi garantite che lo fate tutto. Sì, bene, okay. Sì. Quindi vi sposto il token fino all'estremità. Yes. You go. Nel frattempo do un tozzo di carne umana a Irumaru. Certo, Irumaru lo prende molto volentieri e inizia a piroettare. Nel giro dei giorni ha cagato diverse palline che ho messo nell'inventario a Mif. Grazie. Ha quasi riempito la tua sacchetta delle palline. Ok, dovremmo prenderne un'altra. Ok. Ci impiegate circa un'ora a cavallo, un po' meno di un'ora a cavallo per raggiungere questo punto che vi ho segnato sulla mappa. Siete 4 km a sud della centrale di Mana. Siete lontani dall'esercito che è rimasto laggiù. E una volta che siete perpendicolarmente sotto, usando Every Talk se lo vuole usare Adone, e usando Speak with Animal se lo vuole usare, cioè, vuole usare passivamente Nibel, riuscite non tanto a comunicare digettivamente, ma a sentire quello che dice la creatura. Okay. Quindi Adone. Disafferizzato. Vediamo la cam. Di W. Dimmi solo se vuoi usare Every Talk adesso o no. Sì. Ok. Ti tolgo 2 di mana. Okay. L'avevi già usato Every Talk? No. Ok, te lo tolgo. Adesso, cioè, sei a 1 di fatti. Da 1 di mana. Mi metto io l'esperienza di magia, vero? Sì, mettitela. Perfetto. Quindi Nibel riesce a percepire l'entità che comunica e Adone riesce a percepirla chiaramente. Faccio prima Nibel. Sembra che stia pregando, nel senso che sta parlando tra sé e sé facendo delle richieste. Queste richieste sono astratte, cioè non riesce a pinpointare, non è una roba semplice, non è ho fame, ho sete, voglio andarmene, non sono comandi semplici, sono cose troppo complesse, però riesce a percepire quella sensazione di venerazione che ha nei confronti dell'altro. Mentre Adone ha un disegno molto più chiaro. E la preghiera che sta dicendo, te la parafraso, immagina che sia in una lingua particolare, faccia rima, sia tipo una preghiera cattolica. Il sunto è chiedere a Liviagon di riportare l'ordine perduto al mondo, qualunque sia il costo di questa cosa. Ok, prima di comunicare con la creatura, parlo con gli altri, dico, questa creatura sta pregando, come abbiamo capito tutti, e sta pregando a Liviagon di riportare l'ordine nel mondo a qualsiasi costo. Beh, speriamo che questo Olivia sia rinchiuso da qualche parte, non libero come questo. Adone. Cosa mi dice? Adone? Liviagon è una femmina, lo capisci perché la preghiera parla al femminile, nel caso non lo sapessi ancora. Correggo. Liviagon è una femmina comunque. Questa, Liviagon, speriamo che sia rinchiusa in una centrale, che ripete di nuovo tutta la... Dietro alza tipo la mano. Vai, ti dietro. La mano si alza e va in cima e poi fa tipo... E indica la centrale dietro di noi. Oh no... L'acume di lieto è corroborato dalla vostra percezione che le preghiere della creatura siano dirette alla centrale. Oh no, tutti, ci affonderemo tutti, no? Voglio tornare a casa, Yoda, ma dove sei per esaudire i miei desideri? Voglio fare un contratto con te. Vuoi veramente... No! Non serve arrivare a tanto. Sì. Vedete, visto che è disperata, cioè, basta. Vabbè, dai, capisci, l'ha avuto un lutto. No. E se... Se liberassimo Olivia? Con... Io ci stavo... Tutti scherzando! Perché no? Io non penso a questo punto che questa isola semovente sappia che il dio è imprigionato per quello che è. Io più che altro che la creatura pensa che Livia non sia lì con la sua volontà, nel senso, esatto, cioè, imprigionato. L'ipotesi di Lieto è che l'isola abbia sentito l'entità di Livia nella centrale, ma non sa che è lì contro la sua volontà, cioè ne ha solo sentito la presenza. E è andata a pregare lì perché è lì che l'ha sentito. Quindi, secondo voi, se dovessimo liberare questa dea, cioè, questa cosa si renderà conto che questa dea è stata imprigionata perché così? E secondo te, saranno tranquilli a riguardo? Secondo voi? Anche se sia una buona idea. Ma intanto si può... Scusate, lascio off la telecamera perché stasera non ce la fa proprio. Tranquillo. E... potrebbe essere riconoscente la dea. Riconoscente, vedete che tu e ti punta il dito contro tu che te li dovresti mangiare tutti gli altri dei e quell'altro che si dovrebbe mangiare le anime di tutti quegli altri. Secondo te sarebbe riconoscente? Lo sappiamo. Non possiamo saperlo adesso. Io andrò adesso, sono... andrò con Nibble e ti alza un sopracciglio a riscattare il debito che abbiamo. Se voi ci siete poi al porto ci possiamo ritrovare tutti. Io non vorrò liberare un dio, io non rischierò la mia vita oggi. Ho già visto un amico morire, non voglio seguirlo. Possiamo mentire anche a entrambi, alla creatura così ci aiuta e al dio così ce lo mangiamo. Come hai intenzione di farti sentire? Il coniglio vola con la diadone, vero? No. Sì? Sì, vola adesso. Il coniglio può ripetere le parole degli esseri umani? Come funziona? Parlare, no, fare qualcosa? Cosa no. Vorresti far fare al mio coniglio? C'è una... Siamo sotto la testa. Portarci su? Sopra la no, testa. Puoi andare solo su lui, però doubt che riesca a tirare su qualcuno, il coniglio che vola. No, chiaramente non la fa. Io credo che... Master, ho un'idea. Oddio. Delusion Kingdom. Oddio. E, può deformare tecnicamente gli oggetti, no? Ma... sono comunque un'illusione o si deformano davvero? Perché se si deformano davvero ci possiamo alzare di molto se io deformo l'obelisco del suo 25% in grandezza. Wow. L'obelisco è alto un paio di metri, non è 11 km in verticale. Primo. Secondo, modifica gli oggetti, la percezione che hai degli oggetti, quindi al tatto sono modificati, cioè hai la percezione falsa che sono modificati, ma non sono veramente modificati. ultima cosa che vi dico: sia Adone che Nibel avete la percezione che qualunque cosa stia facendo è un processo lungo. Ok. Cioè è una cosa che impiegherà giorni, che magari per quella creatura sono un battito di ciglia, una cosa immediata, ma per voi è un processo molto lungo, la sua preghiera è molto lenta. Sembra che abbiamo un po' di tempo. Non è... Scusami, vai. La centrale col Magister, non la farei. Sì, ascoltate, ci conviene andare a Desbusan, prendere la nostra Mana Uni, tornare da Aku ed eventualmente decidere cosa fare con questa creatura. Andiamo a prendere la Mana Uni intanto, che se non altro sappiamo di avere una barchetta con cui fuggire da questo luogo. Soprattutto, siamo sicuri di trovare una Mana Uni da... Una vocina nelle vostre teste, una vocina maligna, caotica, malvagia, che verrà interpretata a Irumaru. Dice: le centrali di mana sono piene di mana unit. Fine. Lo sapevamo già. Cioè, però comunque infatti la frase di Mif era: siamo sicuri di col cazzo che al villaggio di stisola di merda c'hanno una mana unit. Trovare una mana unit c'ha il suo costo, quindi dovete trovare un modo. No, nel senso che noi adesso andiamo a riscuotere le tasse, ok? Dal tizio ex amico di Nibel, non mi viene quello Adelfo, quello è plausibile. Vabbè, che lo trovate, esatto. E... da Adelfo prendiamo le cose, ok? Cioè, infatti, cioè perché... Se c'è Adelfo, perché... Sì. Andiamo a cercare sto Adelfo, dai. Così e se non lo ha, lo utilizzeremo come scusa per intrufolarci nelle centrali, analizzeremo bene il contratto che c'è da fare e prenderemo una unit. Ma tanti contratti ogni tanto non valgono. Non penso funzioni così lieto, sai? Andiamo adesso. Ho bisogno di chiederti. Vai, scusa. Anche se dovessimo liberare Lidiagon, non è detto che dobbiamo per forza allearci con lei. L'importante è che faccia casino. Sì, Lidiagon, dea dei mari, sicuramente innalzerà l'acqua. Quindi, cioè, forse, non lo so, non ne ho la minima idea, però stare in un'isola con una divinità arrabbiata non penso sia un avatar di una divinità arrabbiata o una divinità arrabbiata, non lo sapremo, però non penso sia una bella idea, onestamente. Andiamo a cercare il nostro debitore. Sì. Devo chiedere che strada volete fare. Quella più lontana dall'esercito, ve prego. Nel senso che ritornate nel bosco e passate dal bosco o fate la coastline? Possiamo esatto. Fare la coastline io. Infatti. Cioè... Loro stavano andando oltre la centrale oppure sono entrati alla centrale? Avete persi di vista prima che arrivassero alla centrale? Immagino siano la centrale, visto codesta situazione. Magari si stanno preparando, magari si stanno ingegnando, chi lo sa. Magari lo sanno e stanno proteggendo Lidiagon, cioè nel senso... Sì, avete possibile. Capito. Dai. Ripercorrete la coastline, cercando di fare molta attenzione a chi ci sia nelle vicinanze. Parlate di quello che volete nel frattempo, quindi se volete parlare potete farlo. La coastline sarebbe anche molto affascinante perché è uno di quei luoghi incontaminati, cioè non c'è traccia umana da nessuna parte. Contate che dall'altro lato di questa penisola l'unica traccia umana era l'obelisco e la seconda traccia umana che avete trovato è il mausoleo che avete lasciato voi. A parte quello è tutto completamente brullo, selvatico, eccetera, e non ci sono nemmeno animali, tracce di animali. Ve l'avevano già detto, credo, è perché questa zona è soggetta agli attacchi dei mostri, quindi la parte più a sud tendenzialmente è completamente spoglia. È quasi un deserto a un centimetro dall'acqua, è veramente strano, affascinante, romantico, surreale. anche la sabbia sembra diversa da quella a cui siete abituati. Ripercorrendo tutta la linea costiera, vedete l'altro lato dell'isola rispetto a questa insenatura, e vedete che ha la stessa struttura, cioè è brulla, completamente sprovvista di insediamenti umani, di costruzioni e di altre cose. Anche di alberi, nemmeno gli alberi sembrano crescere. Mentre guardando più a nord, in lontananza, vedete che ci sono delle strade, delle casine, dei cartelli, insomma, delle tracce di civiltà. Guardando a nord-ovest, poi c'è la centrale, quindi c'è tanta civiltà. Proseguite tranquillamente, perché non c'è anima viva, quindi l'unica voce che sentite è quella degli altri che vi stanno accompagnando. A questo punto immagino state parlando di tutt'altro. E in prossimità di quest'albero che vedete sulla mappa, che corrisponde a un pezzetto di bosco, non è un albero singolo chiaramente, che si affaccia su un piccolissimo promontorio alto 2-3 metri, c'è un uomo seduto che sta guardando la creatura gigante con... sembra una sigaretta, sapete tutti che le sigarette non sono di tabacco, però comunque le robe che si fumano, e sta fumando guardando la creatura, e è quasi ipnotizzato dall'entità che gli sta proprio sopra, quindi sta guardando così, fuma e guarda in alto, e man mano che vi avvicinate, se vi interessa, notate che la sua mascella è meccanica, i suoi capelli sono tutt'altro che pettinati, e ha i suoi vestiti neri slacciati. È esattamente quello a cui sto pensando. È esattamente quello a cui stai pensando. Siete abbastanza lontani che potete sia nascondervi che fermarvi che cambiare strada. Però sembra lui essere era da con solo. Quell'altro. Lui era con quell'altro. Magari possiamo già iniziare a fare qualcosa. Adorno si gira verso la centrale, poi guarda Miff e dice: non credo sia il momento giusto questo. È distratto. È da solo. È Miff che hanno due obiettivi diversi. Esatto. Vi lascio pensare, vado a prendermi da bere perché sto morendo di sete. No, vai. Anche io volevo andare a prendermi da bere. Vai, vai, allora. Anche prendere da bere. Va bene, vado a bere. Ti ferma dal farlo pure tu. Scusa! Allora, Stella, ti sta piacendo la sessione? Degrado. Che solo Fateless ci può portare. Fette altissime. Sì. Io ci sono già. Si dimostra che ci metterà un po' di più. Sonic is my name, Speed is my game. Lo sento. Eccomi qua. Mi senti? Sì. Fa caso. Perché faccio un casino. E Adone guarda Miff, sospira e dice: non ti fermerò. Non credo di poterti fermare in ogni caso, quindi... Da sola non penso di riuscirci, però... Lieto non ti è contro e ti aiuterà nel caso, però non è lui che va, mettiamola così. Visto che è distratto, forse l'idea migliore è addormentarlo? Sì. Puoi gonfiarlo? Sì. Ci sto... Prego. Sto pensando anche a come farlo. E posso usare Future Glimpse? Nel senso, te lo vuoi preparare per il combat o perché vuoi vedere cosa sta per succedere? Voglio vedere cosa sta per succedere. Ho bisogno di sapere cosa vuol fare. Vai. In base alla DC, cioè in base a quello che sceglie Miff, ovviamente. Miff, essendo strega, tecnicamente può castare due spell alla volta. Allora, forse la cosa che avrebbe più senso, mi prosciugo di mana, però avrebbe più senso, è castare Delusion Kingdom, letteralmente fare in modo che lui veda le stesse cose che sta vedendo, ma che io sia nascosta. Così mi avvicino e gli casto Neuromancy e non mi vede, perché letteralmente lui sta vedendo l'illusione di quello che è già. Il punto è, chissà se se ne accorge, cioè bisognerà vedere, però potrei farlo. È questo che vuoi fare? Sì. Mi dice la difficoltà di Oneromancy? Adesso la... Ah, Oneromancy, ok, neanche. Sei più 2 per M, più livello, quindi 2 per 4 fa... 8. E più 6, fai te il calcolo, 4 più 2... 14, grazie, giusto. Più 6, ancora, 20. Quello che vedi è che Delusion Kingdom fa quello che ti aspetti, riesce ad avvicinarti abbastanza ad addormentarlo, e si addormenta dolcemente. Questo è quello che vede Lieto. Ti vorrei chiedere qual è la tua azione successiva, cioè una volta che l'hai addormentato, cosa vuoi fare? Lieto o Miff? Miff. Miff vorrebbe entrarvi nei sogni. E una volta dentro i sogni cosa vorresti fare? Allora, due cose. Primo, spremerlo. Secondo, lo voglio passare poi. Prima spremerlo, voglio sapere un paio di informazioni. Voglio informazioni. Cosa vuol se dire c'è spremerlo? Bisogno lo si tortura. Che cazzo ne sa? Ok. Cosa. Lieto, vedi che la tua visione del futuro biforca. Vedi due scenari equamente probabili, basati fondamentalmente sul caso. E in uno di questi scenari, Miff riesce a conversare con lui, raggiungono un agreement, e quindi cancella le sue magie. Da lì in poi non vedi cosa succede. L'altro scenario è quello in cui, nella realtà, non nel sogno, mentre sta dormendo, Devin si strappa un guanto e vedi tutto nero. Cioè non è come se si fosse interrotta la visione, è come se fosse calata la notte improvvisamente. Puoi comunicare questo a Miff prima di farla agire. Le faccio sapere che probabilmente è un 50-50. E in un caso esce una cosa positiva, nell'altro caso bisogna colcarlo di botte. Positiva, non lo so, però. Miff sorride e fa: guarda, dietro io ho veramente poco da perdere, mi sa. Non credo che tu abbia poco da perdere. È la giornata del lutto, cioè è la depressione. No, di... Dica depressa, dai, insomma. Dai. Esatto, dai. E ti guarda e fa, io onestamente ho vissuto una vita di rischi, quindi tanto vale riprendere. Che dici? Fa quello che deve fare. Consumi il mana e guadagni l'esperienza. Lo stesso vale per Lieto con... Dammi un attimo che me lo segno. Me l'hai già tolto? No, t'ho tolto niente. Ok. Ok, quindi 5 più 4, facciamo 4 e poi 5. Stava 2, stava 3. 5 di mana. E prendo una. Ma già, vero, io ho fatto teurgia. E adesso è... Oddio, devo aggiungermi ontica! Magia. 1. Sta cosa diventa solipsistica per Mif come lo è stata per Adone Lieto prima. Mi spiace per Os. No! No! Ma poi avremo l'arco di Adelfo, mi auguro. Quindi, si spera. No, voi vedete Mif che va avanti. Siete coperti da Delusion Kingdom. Voi Mif può manipolarlo nel modo che preferisce, quindi voi potete vedere normalmente. Ti avvicini a lui silenziosamente, il più possibile, ci riesci. O meglio, ho rollato per vedere se lui riusciva a percepirti e non ti riesce a percepire. Quando sei... Sì, una cosa, Libre scende da cavallo, si mette a posto i guanti ed è pronto a scattare. Ok. Io assumo che sia solo Mifa ad avvicinarsi e voi state lontani, perché se vi avvicinate anche voi addormenta anche voi. Quindi sì, dovete stare almeno 10 metri di distanza, mi pare. Decisamente. Quando sei nel raggio d'azione di Oneiromancy, lo casti e Devin, perché sai benissimo che è inutile che faccio finta di niente, si addormenta e era in una posizione stravaccata, quindi semplicemente si appoggia indietro e gli cade la sigaretta di mano. Pingo la sigaretta. Ah, ti avvicini proprio a... Sì, okay. Cioè proprio a muso muso. Spengo la sigaretta e niente, praticamente c'è una mano un attimo sopra la testa di Devin e si sta combattendo, si strozzarlo. Devi vai. Rollare un religione. Devo rollare. Arriva. Ah, ho tolto, da più rapido. Ok, non di 10, 3 più un cazzo, 3 più 3, 6. Nulla. Devin è una persona con poteri magici basilari, non spiccherebbe in una folla, cioè è una persona che sa usare la magia a un livello average to below average. Ponderà un attimo di strozzarlo lì e farlo fuori per sempre, però il lato sadico di Mif vuole entrargli in testa, quindi gli entra nei sogni. Vuoi vivere un sogno in particolare suo o vuoi craftarlo tu? È tipo un... Lui ha un incubo ricorrente. Vediamo l'incubo ricorrente. L'incubo ricorrente rientra nella categoria dei sogni che sono ricordi, che tu riesci a percepire in maniera diversa perché ci hai fatto l'abitudine. E quindi quando c'hai questo genere di sogni riesci a capire che hanno una realtà più intensa dei sogni fantasiosi, diciamo. Sogni chimera. Sei sulle montagne. A giudicare dalla loro struttura, non sono le montagne di Thrais, sembrano un po' più a sud. Montagne, okay. O le Alpi o le montagne dell'Impero, non riesci a distinguerle così bene. Distingui bene le tue, distingui bene le montagne degli Shunar perché ci sei stata, quindi quelle ce l'hai bene in testa. Le altre sono un po' non descript, quindi una di queste due. Gli alberi non ti raccontano una storia così delineata. È inverno, a giudicare dal fatto che gli alberi sono coperti, gli alberi e il pavimento, sono il terreno sono coperti di neve. E Devin è un bambino, circa 4 anni. È a terra, ha il naso rotto, gli mancano i denti incisivi, sta sanguinando e sta piangendo, mentre davanti a sé c'è un orco, dal suo punto di vista è il suo sogno, quindi lo vede come un orco, una creatura mostruosa deforme, che è sopra sua madre, che è morta. Il sogno è tutto qua, cioè questa scena... E ripete. Dell'orco che sta o mangiando o facendo altro. Mif si tipo passa un dito insomma sulle labbra e decide di fermarlo il sogno, di palesarsi, perché se prima era magari uno spettatore, si palesa davanti al bambino e fa: ti stai divertendo? Devin riprende immediatamente la coscienza del suo io attuale, cioè si stacca subito dal sogno. E tanto che la sua figura, la percezione di se stesso, vacilla e oscilla tra lui bambino e lui come è adesso, quindi con la mascella rotta, con le cicatrici, i vestiti eleganti. Quindi tu vedi questo vacillare della forma e dice: non particolarmente, no. Se vuoi possiamo continuare per ore. Io mi diverto in queste cose. Interessante. Non è la cosa più unica che abbia visto. Lo vedi che sta contando? Io dico che non riesce a tenerla per 25 minuti. Forse. Ho fatto sogni lunghi. Ho controllato sogni multipli. Penso che avremo abbastanza tempo per parlare un po' e poi vedere che destino avrai. Ti guarda in silenzio. Miff batte le sopracciglia, cioè batte le ciglia e fa: non mi piace questo ambiente. Cerca di cambiarlo e lo rende asettico praticamente. Il solito blu che sogna. Con l'orizzonte che lo perdi a perdita vista, che riflette il cielo, cielo completamente terso, luce strana. E guarda Devin e fa: allora, ti sei divertito a torturare il mio amico? Sei divertito a guardare come l'altro gli abbia tagliato la testa? Sai, mi ricordo di te. Io non mi ricordo di te. Ah, per fortuna. E va bene anche così. Vedi, c'è una cosa che mi interessa. Tu sai cos'è il mostro? Quell'animale lì in preghiera, oppure ti è tutto nuovo? Ho avuto modo di parlare con qualcuno che sa qualcosina in più. Immagino che il Magister al tuo fianco possa rivelare alcuni segreti, o è sotto contratto? Quale contratto? Essere stupida. Quindi loro sono liberi da qualsiasi altra cosa, ovvio. Non so gli altri, lui sicuramente. Non è il tipo, effettivamente, da essere rinchiuso da un pezzo di carta magico. Quindi chissà. Però quanto... avete fatto affari con me circa 3 anni fa. Azienda dei Medikit. Oh. Tuo Magister ha firmato il contratto, quindi mi è parso strano che l'impero non lo... non lo obbligasse a fare qualcos'altro. Quindi, cosa c'è nella centrale? Purtroppo sono sotto contratto. Non penso che sui sogni valga. Teoria interessante. Non credo che voglio rischiare. E ricominciamo con gli incubi. Te l'ho detto. Non li terrai più di 25 minuti. Mi bastano 10 minuti. È tutto il tempo che durerai. Ah sì? Mm-hmm. Credi di conoscermi? No, però tu di certo non conosci me. Ah, questo è poco ma sicuro. Credo che tu abbia frainteso la mia posizione. Non sono il tipo da torturare le persone, innanzitutto. E soprattutto non uno di noi. In che senso? Ho dei progetti per l'impero e prevedono di eliminare chi non merita di starci. Tipo l'orco che ha mangiato tua madre? Esatto. Oh. Scusami. Ecco, lo sapevo, sarebbe arrivato. Stavo cercando di trattenermi, non ce l'ho fatta. Corri! Non vorrei. Ah sì? Pensi che riuscirai a farlo? Pensi che il mondo non esploderà prima? Perché non penso sia un buon presagio quello che c'è sopra quest'isola maledetta. È solo un tentativo del mondo di ritornare al suo stato naturale. Può anche come ce essere. Ne sono stati tanti negli ultimi 80 anni e come ne abbiamo respinti altrettanti. Non è questo a farmi paura e non è questo che inficerà negativamente sul mio piano. Beh, basta che mi dici chi è che ha dato l'ordine di eseguirlo, il perché lo avete fatto, il perché proprio qui. Magari deciderò di risparmiarti. Deciderò... Oh, che paura! No, non devi avere paura. La morte è una cosa oggettiva. Ritorni alla Terra, ti decomponi. Ma se gli dei esistono veramente, allora Dauti sarà felice di accoglierti. Appena avremo finito questa cazzata tra noi due, mi assicurerò di andare da Dauti e di sputarle in faccia. Oh, vorrei tanto vedere come andrà a finire. Allettante. È molto facile quando lei è incatenata. La tua teoria è esatta, qui dentro i contratti non valgono. Ma vedi, c'è qualcosina che posso dirti? Ti sono ad ascoltare. Molto interessante. Mi si siedono. Ridimmi il tuo nome. Le carpe. Mif. Stand out. Ah, ho capito chi sei. L'ennesima pedina nelle mani dell'impero. Direi hanno che Trice questa... non è nelle mani dell'impero. Fantastica abitudine di far credere alle donne che contino qualcosa quando in realtà sono degli oggetti al servizio dell'impero. Come la principessa. Già. Cambierò tutto, te lo assicuro. Ho solo bisogno di qualche giorno in più. Sì, qualche giorno. Cosa volevi sapere della creatura? Volevi sapere perché abbiamo ucciso il biondo? Sì. Il biondo era pericoloso. Avrebbe portato alla fine del mondo, o qualcosa del genere. E questo non è nella linea dell'impero. Esattamente. Non è stata né una mia idea, né una cosa che ho fatto io. Oh, e quindi chi era la cosa? Di chi era l'idea? Il Magister. Ah, quindi devo ammazzare Carlaine. Certo. Comprendo. E io so come fare. Mi lo guarda e fa. Ti ascolto. Lui manifesta un orologio. Dovresti tremare un filo, considerando che è il tuo sogno. Cioè, il sogno che controlli te. Eppure è riuscito a manifestare un watch meccanico. Ah, letteralmente non stavo capendo. No. Ok, sì. 8 minuti. Come ti dicevo, secondo me ne regge ancora 17. Vuoi svegliarmi o... rimaniamo qui dentro? Sei sotto contratto. No? Niente di quello che ti dirò infrangerà il mio contratto. È limitato solamente alle... questioni prima della centrale. Prima la centrale. Cosa vuoi sapere della centrale? Nucleo, come funzionano, perché buonanotte. Perché intrappolano divinità, perché c'è questo... perché è necessario. Credo che tu stia sopravvalutando le mie conoscenze. Cosa sai allora? So come li intrappolano e... che uso ne facciamo? Non so perché li intrappolano, non so i dettagli. Bene, come? Ah, come penso di averlo visto, più o meno. Però... Sì? Sì. Sai l'incidente a Lumiera? Beh, è andato ad Apeira. Ero lì. Oh. Interessante. Papa tardi diru. Non particolarmente, no? No. Beh, è stata impalata almeno 50 volte. Se la vi... Non che mi interessi. L'importante è che non muoiano. Se muoiono lì sì che diventano pericolosi. Non se ne possono fare altro. È quello il problema. Non si può avere controllo sui nuovi avatar. Non avete modo di rintracciarli? Sì, dopo che fanno qualche stronzata. Tendenzialmente ci vogliono un paio di giorni. E allora è semplice. Immagino che a te non importino le innumerevoli perdite umane che corrispondono a un avatar libero. A noi dell'impero no. Un pochino di più. Beh, ognuno ha i propri interessi. Cosa ne fate poi? Vengono messi dentro le centrali per estrarne il mana. Qual è il vero uso del mana? Non è solo per le magie. Non ho la più pallida idea. Pensavo di aver preso una preda più importante, invece no. Dubito che qualcuno sappia la risposta a questa domanda, compresi i Magister. Interessante. Mif guarda l'orologio, no? E fa... Come hai fatto? Credi di essere l'unica brava con la magia? No, no, assolutamente. Ci mancherebbe. Ma insomma, è qualcosa che dovrei controllare io. E... Facciamo che non ti ammazzo subito. Magari più tardi. Che lo sai. L'ho già provato in tanti e sono ancora qui. Potrei farlo io adesso, in questo momento, non tentarmi. Tic tac. Due giri di oneromanzi bastano per farti fuori. Forse tre. Sarei quasi curioso di testarlo. Ti porto indietro dopo? Sai resuscitare i morti? No. Altrimenti l'avresti fatto col biondo. No, non si può. Ah, quindi conosci la storia delle Leyline. Interessante. Credevo fosse un segreto meglio custodito. Tanti segreti sono stati denocciolati in poco tempo. Mi ci sono voluti pochi anni. Stesso vale per me, pochi giorni. Bene, allora dirò a tutti gli altri di stare tranquilli. Mito però gli fa gli incubi. Ok. Cioè, comunque, quando esce, comunque, finché non decide di svegliarlo, lui è tartassato, cioè... Va via The Broken Kingdom. Tiene un attimo nei romanzi e fa, l'ha risparmiato, ci dirà come ammazzare il Magister. Illusion Kingdom l'hai mantenuto attivo o l'hai tolto? Non ho capito. L'ho tolto. Okay. Cioè non avrebbe senso tenerlo. Ti sei girata a guardare gli altri? Sì. Ero tipo chinata su Devin, quindi letteralmente mi giro leggermente. Faccio, ci dirà come ammazzare il Magister. Ha detto quando che sono un modo. Non c'è più. Penso non c'è più. C'è il terreno. Gli Mazzo. Alberi, come avevo detto. Qualche tutto sasso. Tutto strozzo. Voi da lontano non avete visto niente perché c'era Mif che lo copriva. Vediamo che... Ma la romanza è attiva. Sembra non l'ho tolta. È ancora attiva? Sì. Posso andargli in testa? Sì. Sì, vai, ritorno. L'orologio, che è rimasto lì, è andato avanti di un botto. Quanti minuti ho? ne segna 24. C'è lui che sta vivendo il suo incubo e sorride. E fa: dove sei, stronzo? No, no, nell'incubo lo vedi. Certo, okay. Certo, e gli dico nella realtà: dove sei, stronzo? Posso vedere che non ci sei. Dove sei? Sono qui? No, non sei qua. Dimmi come si ammazza il Magister. Tutti i Magister sono esseri umani. Si ammazzano come ogni altro essere umano. Non è vero. Ci hai provato? Alcuni sono duri. Li posso addormentare, ma non è... Sai cosa? Posso usare di nuovo nei romanzi? Mi tolgo 4 di mana di nuovo. Certo, certo. Sì che puoi. Ottimo, perfetto. Mi tolgo altri 4 di mana. Vai, faccio danno. E devo rollare... Aspetta, aspetta, aspetta. 2 di 6 erano... 4 di 6 totali. Mi rirolli 4 di 6? Ti rirollo 4 di 6. 12. Ok. Nel sogno vedi che flincia. Come se gli avessi fatto male. Mm-hmm. Non erano questi patti, stronzo. Ancora 30 secondi. E gli fa di nuovo male. Di nuovo 2 giri da 4 di 6. Vai. 19, 16. Stavolta gli hai fatto un male cane. Minchia. Gli hai fatto un male boia. Aspetta, mi devo togliere 4. Segnati pure l'esperienza di fare questa cosa qua. Quindi è... Ah cazzo, non mi ero... 3 di... Dopo dobbiamo contare perché non me lo sono segnata. E con la mano destra tira un pugno all'orologio e dice: te avevo detto che non l'avresti retta a lungo. E il sogno si infrantuma e vieni buttata fuori dal sogno. Ok. Devin non è lì però. E... cade all'indietro, perdi l'equilibrio e cade all'indietro perché è un trauma il fatto che finisca il sogno. Gli altri si sono avvicinati ormai e siete voi quattro e apparentemente basta, non c'è nessun altro nel giro di chilometri. E insomma c'è schifo. Gli ha dato almeno delle informazioni utili? No. Immaginavo. No, una sì invece. Ha detto che Nai avrebbe portato la fine del mondo se fosse rimasto vivo. Adone ti guarda e vedi che la sua espressione non cambia minimamente. Al che ti appoggia una mano sulla spalla e ti accarezza un attimo dicendo: ci hai provato. Ne ho fatto un tentativo schifoso. E vedi proprio Miff che si mette una mano sugli occhi e sulla fronte. C'è un detto dalle mie parti che dice: non c'è due senza tre. Quindi la prossima volta che lo incontreremo credo sarà la volta buona in cui lo facciamo secco. Sì. Deve arrivare a vomitare sangue e poi morire di dissanguato. Dalla bocca. Tanto pare spaccargli la mascella, visto che ce l'ha di ferro. Non è abbastanza. Ti scrivo una cosa, Pianic. Come cazzo ha fatto a scappare? Vedi proprio, vedi proprio che è tipo Shrink pose, ok, cioè con le oh mio Dio, con le braccia che si abbracciano le ginocchia e fa, come cazzo ho fatto a scappare? Come mai è sopravvissuto? È questo che mi piace malterlarli nella vita reale, dove non possono scappare. Ah, hai ragione. Io sono a secco con le risorse. Se mi date 2 minuti recupero un po'. Pianic. Il recupero lo possiamo fare anche mentre andiamo a cavallo, devo per forza stare ferma. Se è clear mind puoi fare quello che vuoi. Ok, clear mind. Sì, sì, puoi fare quello che vuoi. Ok, allora. Ah, mi sono un po' aggiornato. E sono 2 di 6. Sì, però vado a prenderlo. Sì, perché è 1 di 6 ogni. Sì, recuperi 2 di 6. Esatto. Esatto. Paro paro, cioè, pensavo ci avesse effetti strani. È 2 di 6. E se vai in over recuperi 7. Ho preso la recuperi. Se vai in over recuperi fatica o vivo. Ottimo. Ok, ditemi cosa volete fare. Salire a cavallo e andare a Esposana a sto punto. Continuiamo il nostro piano originale, direi, sì. Andiamo a Esposana. Ho una scena dopo i titoli di coda, quindi facciamo un pezzetto di altra trama. Andando avanti in questa direzione, vi ricongiungete col bosco e ci sono apparentemente 3 strade per arrivare ad Esposana. La prima è la strada lastricata, quella dei carri, quella che collega la centrale alla città. La seconda è la strada costiera e la terza è il bosco. Vi lascio scegliere, cioè scegliete quale volete fare delle tre. Voto bosco. Perché? Perché con la lastricata chiaramente ci incontri qualcuno che va da o per la centrale. C'è un'isola gigante vicino al mare e non ci vorrei stare troppo vicino, ergo bosco. Il bosco, ci sono i mostri. Anche sul mare ci sono i mostri. Possiamo fare il bosco finché non arriviamo al fiume, poi accosteggiamo il fiume finché non arriviamo ad Esbosan. Siamo okay. Un po' piano quello, sì. Almeno. Almeno per la zona vicino alla centrale sono d'accordo con Lieto. Rimanere un pochino più protetti. Mm-hmm. Anche io sono d'accordo. Andiamo. Sarà Mogia per tutto il viaggio. Cioè, non vi parla se non è interpellata. Oh, allora, possiamo chiudere qua la sessione oppure faccio un pezzetto di trama in più. Il punto è che c'è un pezzo di travel, quindi potremmo fare o dei training, cioè un training a testa e fare il fast travel, o vi faccio fare un encounter. L'encounter lo devo preparare per la prossima settimana, ditemi voi. Tipo 15 km. Arrivate a sera. Cavalli si muovono velocemente, ma passate per una strada un po' scoscesa, non potete andare al galoppo, quindi ci vogliono alcune ore comunque. L'incounter dici farlo la prossima volta? Sì, è un combattimento, okay. Cioè vi faccio combattere i mostri del bosco. Beh, se volete possiamo anche fermarci qua, nel senso. Sì, va bene. Mm-hmm. Ok, allora vi preparo un encounter, non necessariamente un combattente con i mostri, ma qualcosa da fare sulla strada. Sì. Che chiaramente non ho pronto. E scena dopo i titoli di coda. Ho bisogno di un secondo per cercare la canzone. Perché so esattamente cosa voglio mettere. Sì, l'ho trovata, scusate. Oh wow. Oh mio Dio. Flashback. Oh no. Quando avete fatto la fuga notturna dalla quarantena, Devin era sparito. Dove cazzo era? Te lo ricordi? No. Devin era sparito dopo che avete sconfitto Eidos. Ed ma non mi sembra che fosse... Non sapessimo cosa fosse andato a fare. No. È ricomparso ore dopo, davanti alla casa, come sì, estensione del muretto. E la scena dopo i titoli di coda è il promontorio su cui eravate, che ha una pietra in più di prima, che si deforma, ed è Devin che sospira, però non è ferito, quindi si è guarito da solo in qualche modo, e dice tra sé e sé, parlando tra sé e sé, le cose si sono fatte interessanti. Porco Dio! Quella ragazzina mi potrebbe essere utile. Ecco, di amore. No. Si Devin! Tira in piedi, si pulisce i vestiti, cammina verso la centrale, tira fuori un'arma da fuoco, la guarda e dice: e sono riuscito a fare il tutto senza nemmeno mentirle. Ah. La chiudiamo qua.